Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Se io vi dicessi che da oggi potreste vivere in un paese dove lo Stato non esiste, dove la cosa pubblica viene amministrata da pochi uomini scelti veramente da voi personalmente, persone che si occupano solo di sicurezza, giustizia e dei rapporti diplomatici con gli altri paesi, se vi dicessi che c'è un posto dove c'è piena libertà di fare qualsiasi cosa, ovviamente nel rispetto degli altri, se vi dicessi che da oggi potete decidere di intraprendere una vostra attività senza fare le file negli uffici, senza pagare le tasse o contributi, e se vi dicessi che potete costruirvi la vostra casa senza sottostare ai mille cavilli della burocrazia, senza andare al catasto, se vi dicessi che potete esercitare la vostra professione, se siete capaci di farlo e solo se siete capaci di farlo, perché non ci sono più le raccomandazioni, i concorsi, gli appalti, bene, se io vi dicessi tutto questo, voi mi potreste dare del matto e vi sbagliereste, perché c'è qualcuno, un uomo con un grande sogno, con un forte senso della libertà e anche con una preparazione tecnica e politica che gli hanno consentito di fare grandi ragionamenti, c'è un uomo che sta realizzando questo sogno: creare un mondo libero fondato sui principi dei diritti individuali e della proprietà privata, del rispetto delle opinioni altrui, privo di tutte quelle strutture sociali che stanno rovinando la nostra vita quotidiana. Quest'uomo, questo sognatore, direte voi, esiste, ha 32 anni, è nato nella Repubblica Ceca. Si chiama Vít Jedlička e il 13 aprile del 2015 ha fondato Liberland, uno stato dove non c'è lo Stato, dove si fa meno di tutto, del Parlamento, dei politici, dove non ci sono uffici pubblici e dove non si pagano le tasse. Noi, cittadini della libera Repubblica di Liberland, allo scopo di assicurare la vita, la libertà e la proprietà per noi stessi e per le generazioni future, ordiniamo e stabiliamo la Costituzione della libera Repubblica di Liberland, auspicando un armonioso consenso per il beneficio di tutti. Consci della lunga e vergognosa lista di abusi governativi nei confronti del sovrano diritto individuale, dichiariamo che la pubblica amministrazione che governa la libera Repubblica di Liberland rispetterà in maniera imprescindibile la Carta dei diritti e si atterrà alle funzioni stabilite dalla Costituzione. Se la pubblica amministrazione dovesse risultare un ostacolo invece che un garante dei nostri diritti, il governo verrà immediatamente sciolto e sostituito da un governo nuovo che rispetti i diritti individuali, imprescindibili per ciascun essere umano. Beh, se la pubblica amministrazione dovesse risultare un ostacolo invece che un garante dei diritti, il governo verrà immediatamente sciolto, proprio come nel resto del mondo. E questa è l'introduzione della Costituzione di Liberland. E se ci si addentra, si va a leggere l'elenco dei diritti, la Carta dei diritti dei cittadini di Liberland, e ci si accorge subito di quanto questo Stato non Stato sia rivoluzionario e assolutamente innovativo nella sua struttura. Ma vediamo di capire meglio chi è l'ideatore, il fondatore di Liberland, Vít Jedlička, che si autoproclama suo presidente, ma che dichiara che una volta realizzato il tutto darà le dimissioni, perché Liberland in realtà non ha bisogno di alcun presidente. Vít Jedlička nasce il 6 settembre dell'83 a Hradec Králové, nella Repubblica Ceca, in Boemia. È una specie di genio dell'economia fin da ragazzo. Nel tempo in cui mediamente gli altri si laureano, lui di lauree ne prende due: una in economia alla Università di Praga e una in relazioni internazionali all'Università delle Economie, sempre a Praga. E tutto questo lo fa da giovanissimo. Nel 2003, a 20 anni, è già Managing Director di una società che si occupa di analisi finanziarie, fa parte di un network di servizi internet della sua città. Insomma, è uno forte, ma soprattutto è un ragazzo che fin da piccolissimo ha un profondo senso di libertà. A 18 anni entra nelle fila prima del Partito Democratico Civico, è un partito liberal conservatore ceco, e poi nel 2009, a soli 26 anni, diventa presidente regionale di un nuovo partito, il Partito dei Cittadini Liberi, un partito liberale ovviamente euroscettico. Già questo, insomma, la dice lunga sul dinamismo suo e della Repubblica Ceca, perché a 26 anni è un po' difficile che nel nostro paese qualcuno possa già ricoprire alti ruoli politici. Comunque, e lui è un grande appassionato del liberalismo, apprezza moltissimo Ron Paul, cioè l'uomo politico statunitense teorico dell'ideologia liberale americana. Ammira Thomas Jefferson, il padre fondatore degli Stati Uniti d'America, suo terzo presidente, quello il cui volto è ritratto sul Monte Rushmore insieme a Washington, Lincoln e Roosevelt. È l'autore della dichiarazione di indipendenza del 4 luglio, fautore di quello che si poteva presentare inizialmente come uno Stato laico e liberale, cioè gli Stati Uniti, poi è andata un po' in un'altra maniera. Ma comunque lui, proprio a Jefferson, si ispira e decide che a lui gli Stati esistenti non piacciono affatto. Nessuno Stato del mondo, secondo lui, e forse anche secondo me, realizza quello che si propone nella propria Costituzione, perché lo Stato è per sua natura un mostro che tende a sottomettere i propri figli, a togliere loro la libertà con un apparato complesso e burocratico e soprattutto a sfruttarli. Lui inizia a pensare che possa esistere un modo diverso di vivere nella società. Il falco e il gabbiano. Vit Gedlica non ha dubbi, non esiste uno Stato che rispetti la libertà del singolo individuo, anche la democrazia migliore impone delle regole che a lui appaiono assurde, perché sono il frutto di una evoluzione dello Stato che si è andato sviluppando nel corso dei secoli in modo da rendere i rapporti tra cittadino e cosa pubblica impossibili, burocraticizzati al punto da vedere soccombere l'individuo stesso. Kafka docet. E visto che per la normale via elettorale lui si rende conto che sarebbe impossibile arrivare a un modello di società come lo concepisce lui, verrebbe travolto comunque dal sistema, lui deve fondarsi uno Stato personale dove la libertà del singolo individuo sia la sovrana incontrastata, insomma un posto dove lo Stato non faccia assolutamente nulla, perché come lo Stato si muove arrivano i guai. Ha già in mente anche il nome, lo chiama Liberland. We are about to embark upon a great crusade toward greater freedom on this planet. Stiamo per imbarcarci in una grande crociata, diffondere la libertà su questo pianeta. Gli occhi del mondo sono puntati su di noi, le speranze e le preghiere dei sostenitori della libertà marciano con noi. Sono certo che con il vostro aiuto l'essere umano sarà quello che è nato per essere, libero e indipendente. Grazie. Questo è il discorso di Vit Gedlica con cui presenta il suo progetto a Praga durante un convegno organizzato per l'occasione. Spiega a grandi linee quali sono i fondamenti del suo Stato e le poche regole che lo governano. Soprattutto racconta tutto quello che nel suo Stato non ci sarà. Dove si trova Liberland? Perché uno Stato deve pure avere un territorio. Bene, Liberland occupa un'area di 7 km quadrati al confine tra la Serbia e la Croazia, sulla sponda ovest del Danubio, su una terra che viene definita No Man's Land. Peraltro c'è anche un film bellissimo di Tanovic che si chiama No Man's Land. E in questo caso è una terra di nessuno, perché da secoli nessuno la rivendica. È stata individuata e scelta proprio per questo motivo da Vit Gedlica e dai suoi collaboratori, quindi avete intuito che è una terra dove non c'è petrolio, diamanti, eccetera, eccetera. E si estende su una superficie di 7 km quadrati, quindi è il terzo stato più piccolo al mondo dopo il Vaticano e il Principato di Monaco. Lui è un grande estimatore di Thomas Jefferson, l'abbiamo detto, e quindi gli fa un omaggio. Fonda Liberland il 13 aprile, giorno di nascita del presidente statunitense. Quindi dal 13 aprile 2015 esiste sulla Terra uno Stato in più che si fonda su tre principi cardine: il principio dei diritti individuali, il principio della proprietà privata e il rispetto delle opinioni altrui. Lui presenta al mondo il suo nuovo Stato e le sue intenzioni, lo fa su internet attraverso un sito che spiega e promuove Liberland alla stregua di un'azienda nuova. Il sito mostra la bandiera dello Stato, due bande gialle inframmezzate da una banda nera, con al centro uno scudo con un'aquila, un albero e il sole, che sono i simboli di libertà, prosperità e energia. vengono coniati dei francobolli, viene spiegato il sistema monetario, attenzione, un sistema che si avvale di donazioni dai sostenitori ed è incentrato su una nuova valuta che si chiama merit. So whoever donates to Liberland or whoever works for Liberland. Chiunque faccia una donazione a Liberland o lavori per Liberland riceve dei merit. Potete vedere il mio account sul sito, vedete? Fino a questo momento ho raccolto 452 merit per le donazioni che ho fatto. Servono 10.000 merit per poter diventare cittadini di Liberland. Oppure potete conquistare la cittadinanza diventando parte del team amministrativo. Potete entrare a far parte del governo, ovunque voi vi troviate, in tutto il mondo. E potete iniziare a collezionare merit. Insomma, il sistema sembrerebbe semplice. Chi ama la libertà ed è stufo di sentirsi oppresso dai rapporti vessatori con uno Stato può diventare cittadino di Liberland, luogo che vive e si sostenta grazie alle donazioni e all'apporto di lavoro pratico, di collaborazioni a distanza. Non chiede nessuna forma di tassazione, nessun tipo di burocrazia. Ci sono pochissime limitazioni alla possibilità di acquisire la cittadinanza. Bisogna essere incensurati, quindi non, diversamente dall'Italia dove puoi anche fare il politico, per dire, devi avere una fedina penale pulita, devi tenere in massimo conto il rispetto per gli altri, per la libertà come elemento fondante del rapporto di civile convivenza nello Stato. Non devi essere mai stato militante di un partito comunista o nazista. Le condizioni sono minime, insomma, non è necessario avere un conto in banca e essere ricchi, non serve essere colti, avere una laurea, è sufficiente avere un progetto di vita che insegua la libertà come massima aspirazione. Dopo le prime ore dalla nascita online dello Stato di Liberland sono arrivate oltre 200.000 richieste di adesione e mi sembra il minimo. I problemi che Vijedlika deve risolvere sono molteplici. I due più importanti sono la gestione del territorio e il riconoscimento internazionale. Eh sì, perché Liberland si estende per il momento su una superficie di 7 km quadrati, 16 volte il Vaticano, 3 volte Monte Carlo. Comunque uno spazio molto limitato, quindi è impossibile raccogliere le 200.000 richieste qualora le persone volessero veramente diventare liberlandiani, cioè andare a vivere lì. E inoltre c'è un aggravante non da poco, è un territorio che ogni anno viene invaso dall'acqua del Danubio che straripa con regolarità. Ecco perché lui ha dovuto realizzare un primo insediamento su una nave lunga 65 metri dove ci sono gli uffici di Liberland e le prime abitazioni. L'intero progetto urbanistico del nostro Stato prevede case galleggianti che possano sopravvivere egregiamente alla piena e che anzi la sfruttino per creare energia. Perché Liberland deve essere totalmente autonoma, utilizzando le energie alternative a disposizione sul territorio, come quella eolica e quella solare. Ma cosa deve fare uno Stato per poter esistere veramente? Perché altrimenti ognuno di noi potrebbe farlo teoricamente uno Stato. Io da bambino mi ero fatto proprio il mio Stato, l'Enriconia, con le città. Ma no, non vale così. Si può fare un'azienda, ma non uno Stato. Uno Stato deve avere un requisito imprescindibile, deve essere riconosciuto dagli altri Stati e dalle principali organizzazioni intergovernative, tipo l'ONU. Quindi VIT ha un compito molto complesso, deve instaurare rapporti diplomatici che diano credito a Liberland. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando un sogno, forse un'utopia, un meraviglioso progetto, il progetto di un uomo, un progetto che si sta concretizzando. L'uomo è Vit Jedlica, che è un imprenditore politico originario della Repubblica Ceca che ha fondato Liberland, uno Stato senza Stato, uno Stato senza tasse, che sta diventando una realtà concreta, uno Stato che ovviamente piace a pochi nelle leve del potere, è uno Stato scomodo per ovvi motivi. fondato il 13 aprile 2015 in un lembo di terra di nessuno, al confine tra la Serbia e la Croazia, Liberland sta crescendo, acquisisce sempre più riconoscimenti internazionali, crea la sua moneta, la sua linea aerea, perfino la sua squadra di calcio. È una terra dove la libertà viene prima di tutto in ogni aspetto del vivere sociale, dall'aspetto economico a quello dei semplici rapporti interpersonali. Insomma, è il sogno di tutti che sia vera, o forse è solo un'utopia. Però Vit Jedlica è determinato, è convinto che si possa ottenere un vivere comune regolato da pochissime semplici regole, quelle del rispetto dei diritti individuali e del rispetto della proprietà privata. È sicuro che non servano tutte quelle strutture sociali che stanno alla base dello Stato così come noi lo conosciamo. È sicuro che si possa vivere, convivere secondo i criteri del liberalismo, quelli propugnati da Jefferson e da tanti altri teorizzatori di una politica incentrata sulla collaborazione attiva, sullo snellimento delle relazioni burocratiche statali. Un passaggio cruciale nell'affermazione di Liberland è rappresentato dal riconoscimento che gli altri stati, che i principali enti governativi devono ratificare per rendere Liberland uno stato vero e proprio a tutti gli effetti. E di recente Vit Jedlica ha annunciato i riconoscimenti ottenuti da Liberland negli ultimi mesi. Quite honored to say that one of these leaders of the political parties in Spain is also now our representative at the moment. Sono onorato di annunciare che uno dei leader di partito in Spagna è un nostro rappresentante. Juan Pina, responsabile per Andorra e Gibilterra presso il governo spagnolo, è un altro importante rappresentante di Liberland in Spagna. Lucas Reimann mi ha invitato al Parlamento svizzero, mi ha presentato alle personalità più in vista, siamo diventati amici e ora è membro del Parlamento per 8 anni. È stato un incontro cruciale perché la Svizzera è uno dei paesi oggi più propensi verso i paesi di nuova formazione. Korwin Mikke, membro del Parlamento europeo che ho incontrato di recente in Polonia, è un grande sostenitore delle nostre idee. E attualmente, secondo i dati più recenti, Liberland ha 60 rappresentanti in altrettanti paesi del mondo. Ci sono persone comuni e personaggi famosi che vogliono investire nel nuovo Stato per milioni di dollari. 10 governi mondiali hanno offerto aiuto. Fino ad ora Liberland ha ottenuto oltre 400.000 richieste di cittadinanza e oltre 70.000 persone hanno espresso il loro desiderio di trasferirsi non appena possibile nella capitale Gornja Siga. È un paese ultraliberale con componenti statali minime e soprattutto senza tasse, solo con donazioni volontarie. Evidentemente un paradiso del genere fa gola a molti. Ma per avere ulteriori informazioni, per capirci qualcosa di più, per avere notizie fresche sugli sviluppi di Liberland, abbiamo con noi Leonardo Facco, che è un giornalista, uno scrittore, un editore, ma soprattutto fondatore, per quanto ci riguarda, del movimento libertario e referente italiano di Liberland. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, com'è la situazione attuale nel concreto, nello sviluppo concreto di Liberland? È una situazione che va abbastanza bene, perché ad un anno dalla fondazione c'è stato uno sviluppo continuo. Per quello che riguarda la Costituzione, non è la Costituzione definitiva, perché dovrà poi essere discussa fra i vari proprietari che parteciperanno a questo progetto, però è una Costituzione molto interessante, decisamente molto liberale, ispirata a quelli che furono i padri fondatori americani. Per quello che riguarda invece la cittadinanza anche quella la si richiede tutto online. Sì. Ci sono decine di migliaia ormai di richieste di cittadinanza. Io ero con Jedlica proprio una settimana fa e lui mi confermava che di tutte le richieste arrivate sono quelle credibili, che hanno le caratteristiche per poter essere cittadini di Liberland, intorno alle 70.000 circa. Per quello che riguarda la parte edilizia, insomma, sì, costruzione di case, esatto, eccetera, beh, questa è una fase tutta in divenire, che però comincerà ad avere. Esiste un progetto per quello che riguarda la Liberland futura, ma già il prossimo mese di agosto, quando si celebrerà il Summer Festival a Liberland, arriverà la prima grande novità, e la prima grande novità è proprio quella di un insediamento sul Danubio legato a di una nave di 65 metri, sì, che verrà appunto insediata su Liberland. domanda. E tutto questo ovviamente arriva dopo un anno di passaggi importanti, perché c'è stato il momento in cui Jedlicka ed altri amici hanno piantato la bandiera, ci sono stati diversi, diciamo, problemi, no? Gli stati, il croato e il serbo, si erano posti dei problemi, Jedlicka è stato 9 volte in galera, 9 volte processato e per 9 volte prosciolto, però perché non ha mai commesso alcun reato, e quindi è tutto in divenire, però è un divenire che sta diventando molto concreto. Ma quindi questo fatto della galera mi fa venire in mente che potrebbe dare fastidio Liberland, cioè a chi dà fastidio? Liberland è innanzitutto un progetto filosofico-politico, cioè certo, è un'idea di libertà. È uno smacco. E certo, non può che dare fastidio, diciamo, al sistema statuale costituito, cioè all'ONU piuttosto che alla UE, piuttosto che a qualsiasi altra realtà statuale che vive pensando a un monopolio della forza su un determinato territorio, leggi chiare che i cittadini devono per forza rispettare, eccetera. Tra l'altro può dare molto fastidio dal punto di vista fiscale, soprattutto perché nasce certo, come realtà ultraliberale, con tassazione nulla, con la possibilità di aprire aziende con tassazione nulla e quindi creare concorrenza fiscale, questo è il termine, ed certo, è l'esatto contrario di quello che sta accadendo oggi in Europa, dove si va verso l'armonizzazione fiscale, certo, quindi da far tutti un po' tutti. Ma cosa mi dice che non sarebbe uno Stato che entra pronto a entrare nell'Unione Europea, per esempio? No, senza dubbio, senza dubbio, senza dubbio, senza dubbio. Infatti uno dei concetti fondamentali, la moneta, a Liberland non esisterà una moneta di Stato, a Liberland la moneta sarà libera, cioè riprendendo vecchi principi di grandi studiosi come, non so, Hayek, che parlava di denazionalizzazione della moneta, certo, quindi concorrenza tra le monete, e potranno scegliere le persone quali monete utilizzare. Sono concetti importanti, forti, non astrusi, perché forti. Ma infatti, ma io ovviamente guardo come tutti con speranza e simpatia. Il problema è che se prende piede questo, in qualche modo vengono delegittimati un sacco di governi, cioè non è quello l'unico modo di governare, anzi quello è il peggiore, quello dei governi che ci impongono, che fanno, che ci condizionano, loro e le loro banche, no? Lei ha detto la cosa giusta, è proprio questo il punto. Si tratta di fare come la fiaba di Andersen, far tornare i bambini a dire: oh, ma guarda, il re è nudo. Ecco, con Liberland stiamo dimostrando che il re è nudo. Io vi faccio veramente dei grandi complimenti, avete un tifoso in più, ma credo più di uno dopo questa trasmissione. Grazie Leonardo Facco. Grazie a lei, grazie a voi quanti. Ma da un punto di vista strettamente economico e finanziario, come si può considerare Liberland? Cioè, cos'è, un paradiso fiscale? Cosa succede se in uno Stato non esiste lo Stato, non ci sono regolamentazioni bancarie, tassazioni, e quindi, non so, immagino neanche previdenza sociale? Ho bisogno d'aiuto perché il gioco si fa troppo grosso per me. Chiediamo aiuto a uno che di queste cose ne sa parecchio, che è il vice direttore esecutivo di Radio 24, Sebastiano Barisoni, che conduce tra l'altro anche il programma quotidiano Focus Economia. Buongiorno Sebastiano. Buongiorno a te Enrico e chiaramente ai tuoi ascoltatori. Allora, noi stiamo parlando di Liberland, di uno Stato senza Stato. Può esistere tecnicamente un sogno o comunque un progetto come Liberland? Qui più che di economia dovremmo parlare, diciamo, delle vecchie utopie del 700 e poi anche di quello che è il principio dell'anarchia. In teoria tutto è possibile, però faccio notare che proprio le dimensioni dei casi che voi ricordavate, dimensioni anche geografiche di popolazione, ci spiegano una prima cosa, e cioè che l'idea che da ognuno arrivi secondo i suoi bisogni, quindi ci sia sostanzialmente il principio anarchico, che non è, come molti pensano, il caos, ma è il fatto che il cittadino, secondo le vecchie utopie anarchiche, aveva talmente incamerati i diritti e i doveri, certo, da non aver bisogno di una legge, di non aver bisogno di uno Stato, quindi il massimo dell'ordine si raggiungeva attraverso l'azione individuale di un cittadino responsabile. Ebbene, questo, ammesso che possa avvenire, nella storia lo abbiamo trovato su comunità molto molto piccole, tipicamente alcune comunità, certo, montane o alcune comunità etniche estremamente chiuse, in cui in qualche modo la forma cooperativistica, chiamiamola così, certo, rendeva meno importante le leggi da un certo punto di vista, e anche l'idea di uno Stato. Esistono etnie studiate dall'antropologia in cui sostanzialmente ognuno dava una quota del suo prodotto, lo rimetteva in circolo, certo. Anche lì però l'antropologia ti spiega che sono comunque sempre regole quelle che servono, sono regole non definite dalle leggi, ma regole che ognuno di noi ha incamerato. Se andiamo però, e concludo, su società complesse come sono quelle del mondo moderno e poi contemporaneo, ma già diciamo nell'antichità, beh, non esiste una forma diciamo di stato, di, quindi di collettività estesa e articolata che non abbia un insieme di regole, incluse anche la tassazione, inclusa. Non dimentichiamoci che l'impero romano si basava su un principio, tu dici c'era poca tassazione, mica tanto, perché oltre che esserci un prelievo come sempre anche sui prodotti agricoli, vi erano gli schiavi. Allora è ovvio che una società che ha gli schiavi può avere una tassazione più bassa, nel senso che non hai tutti i liberi cittadini, certo, hai chi lavora perché è obbligato, non hai i sindacati che difendono gli schiavi. Mi sembra un'alternativa poco preferibile passare dalla tassazione al ritorno alla schiavitù, ovviamente, ma questo anche tenuto conto che palesemente noi paghiamo di tasse molto di più rispetto ai servizi che poi ci vengono dati in cambio, no? Questo nel mondo non è una... Sì, dipende, per esempio sulle tasse sanitarie in Italia, allora, il problema è come vengono utilizzate le tasse, certo, come paghiamo, perché se in realtà tu dovessi andare a pagare effettivamente, diciamo che non paghi più le tasse per quello che riguarda la sanità e vai a pagare direttamente le cure sanitarie, beh, lì sarebbero dolori, nel senso, certo, che il cittadino sano può anche dire io per fortuna ho pagato nella mia vita, certo, ma il cittadino che ha problemi di carattere sanitario andrebbe a pagare molto, ma molto di più di quanto non paghi semplicemente col prelievo fiscale. Certo, senti, l'ultima domanda che ti voglio fare è comunque ipotizzabile il fatto che, anche se, come stiamo vedendo, Liberland è più, come dire, un sogno teorico che non un progetto fattibile, però è ipotizzabile il fatto che possa dare un po' fastidio che si sviluppino idee di questo genere e quindi che in qualche modo la comunità internazionale non possa fisiologicamente vedere di buon occhio una operazione come quella di Liberland o il ripetersi di cose del genere nel mondo? Sì, anche se non mi sembra una minaccia per l'ordine costituito, cioè voglio dire, in questo momento si ragiona, se devo ragionare su che cosa ha minacciato quello che è la base del capitalismo, delle società che noi conosciamo adesso, è stata più la teoria della decrescita felice e altri approcci sul PIL, non tanto l'idea di uno Stato in cui sostanzialmente gli esperimenti molto piccoli e molto locali sull'assenza di tasse e di pressione fiscale. In realtà noi non dobbiamo dimenticarci però una cosa che a me non convince dell'intera teoria dietro Liberland: le tasse non nascono solo, o meglio, nascono come prelievo anche per remunerare la corte, il re e le cosiddette classi non attive, ma nascono anche come elemento redistributivo. Le tasse, se ben utilizzate, sono lo strumento principale di equità. Può sembrare strano, ma il problema è che devono essere ben utilizzate. Noi, certo, abbiamo un'evasione troppo alta in Italia e abbiamo un utilizzo sbagliato delle risorse pubbliche, ma nei paesi che prendiamo come modello le tasse servono a creare quella struttura di welfare che dovrebbe, in teoria, se tutto, certo, funzionasse tutelare bene, tutelare più deboli, oltre che tutelare più deboli, ridurre quelle che sono gli svantaggi iniziali. Io nasco figlio di ricchi imprenditori o di ricchi professionisti che mi fanno studiare nelle scuole migliori rispetto a chi nasce figlio di certo, una classe meno abbiente. Ecco, la scuola pubblica, la sanità pubblica, la possibilità dovrebbe di avere, rimediare a questo caso. Dovrebbe, hanno una funzione di ridistribuire e di ridurre le differenze sociali, quindi non sono sempre solo sbagliate. Certo, grazie mille Sebastiano, buon proseguimento. Grazie a te Enrico e buon programma. Grazie. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto, e poi ci sono persone come Viti Edlica che hanno pensato di volare così in alto da andare a fare uno Stato libero che non paghi tasse, che non abbia burocrazia e tutte le controindicazioni del vivere che dobbiamo subire come cittadini in qualsiasi parte del mondo noi ci si trovi. Ognuno può volare in alto, in qualche caso può volare in alto assieme a un'intera comunità. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure sul nostro sito www.radio24.it, oppure venite a cercarmi nei miei social, nei nostri social, Facebook, Twitter, insomma, lo sapete, se volete, mi trovate. Ciao, a domani.